sei comuni lucani, sei artisti, sei comunità delle aree interne della Basilicata. È il progetto In Linea d'Aria. Da vicino nessuno è lontano. E anch'io, Patrizia Giancotti, antropologa, amica di Matera e della Basilicata, ricevo la chiamata e vengo calamitata a questo evento itinerante di cui ascolteremo qualche scheggia, fino all'originale incontro di chiusura. Un'agorà, che è stata concepita come un banchetto del pensiero, una tavolata delle idee, sulla quale invece delle bucce di mandarino e dei gusci di noce, tutti i partecipanti muniti di pennarelli colorati lasciano i segni di un fine pasto della cultura, le loro riflessioni, le loro parole chiave, tracce. Nel frattempo si susseguono le voci dialoganti di curatori del progetto, di artisti appunto, di sindaci, di ricercatori, di concittadini, ragazzi e ragazze che riflettono sul come mettere insieme il troppo pieno della città e il troppo vuoto delle aree remote, introducendo anche il concetto di cittadinanza temporanea, quella di chi passa non solo per calpestare il nostro territorio, quella di chi interagisce su vari piani, quindi gli studenti, ma anche i migranti, i viaggiatori e gli artisti appunto che lavorano sulle aree interne, le aree lontane, che riflettono sul concetto stesso di remoto, come fa anche Rossella Tarantino, che fin dall'inizio ha seguito l'avventura di Matera Basilicata 2019 e anche delle sue trasformazioni. Un artista può dare tanti significati alla parola remoto e può anche spazzare via alcuni stereotipi, o del borgo felice oppure del, diciamo così, della terra desolata, e dare una percezione totalmente diversa dei luoghi in cui vivere. Quindi un filo conduttore della discussione di oggi è in che modo cittadini temporanei, in modo particolare gli artisti, si pongono in relazione con le comunità permanenti e possono in un certo qual modo dare una percezione diversa a queste aree lontane. Giovanni Trono, direttore artistico insieme ad Anna Gesualdi di Teatro in Gestazione, e siamo i curatori del festival In Linea d'Aria. La mia domanda in questo momento è: qual è il ruolo dell'arte più che della cultura nei confronti del sentimento della fine? A che serve portare degli artisti che, come diceva Stefano Murgia ieri sera a me, non fanno sconti in dei luoghi in cui ovviamente il sentimento della fine preme con violenza? Quindi ora il tema, insomma, di In Linea d'Aria è stato natura-cultura, no? In questa grande differenza l'essere umano vive una natura artificiale, perché è quella che lui si crea, e l'essere umano mette il bios, lo eleva, cancellando Zoè, non accettando la fine. E allora bisogna accettarlo e andargli incontro, oppure trasformare la fine in un altro inizio. Franco Galluzzi, sindaco di Cirigliano. Noi siamo il borgo più piccolo della provincia di Matera. Siamo una realtà che mi permetto di giocare con i numeri sotto 1000 abitanti, ossia quasi un po' tutti i paesi di quell'area. Da noi l'esperienza è la terza esperienza che portiamo in campo, grazie a Matera 2019. Un giorno capitale, Gardendopia, e la settimana scorsa, l'altro giorno, In Linea d'Aria. Quindi le peculiarità che sono emerse: l'accoglienza che fa parte del DNA, e poi il nostro paese è emerso che è il paese dove si ascoltano i passi. Questo cosa dice? Dice della serenità, della tranquillità, ma dice anche dello spopolamento. Buongiorno a tutti, sono Antonella Iallorenzi. Noi Compagnia Petra ha sede in un piccolo paese di 2400 abitanti dove siamo ritornati. Quando siamo arrivati a Cirigliano ci siamo arrivati con un'idea, abbiamo iniziato ad incontrare le persone. Quello che ci è stato restituito è stata un'umanità vibrante, desiderosa di esserci. Io vengo da un posto dove non ci sono le montagne. Io vengo da un posto dove la natura ha un piccolo spazio tra il cemento. Io vengo da un posto dove non puoi uscire di casa ed entrare nel bosco. Dalla città vengo. Ma vivo da tanti anni lontani dalla terra di origine. È più facile trovare Dio tra il bosco o tra le case? La sento. Quei luoghi vibravano delle loro storie ed era impossibile tradurli in altro, ma era possibile invece portare la loro voce. Adesso io ho 12 anni, Mario ha 9 anni. E c'è un altro membro che ha 8 anni. E quindi cosa avete fatto? Avete raccontato? Abbiamo raccontato delle nostre esperienze di quando andavamo alla scoperta dei nostri nascondigli segreti. Noi abbiamo la fortuna, diciamo, non siamo molti di bambini, però quel poco che siamo ci divertiamo. Ci arrangiamo, diciamo così. Io sono Filippo Tantillo, e sono un ricercatore e all'uopo anche un policy maker. Cioè, il problema di questo paese non è solo lo spopolamento, anzi, forse il problema di questo paese è il decongestionamento. Quindi il tema dello spopolamento a un certo punto si incastra con quello del decongestionamento. Uscirà un bando sui borghi che prevederà il coinvolgimento dei privati. Ecco, se fra questi privati non sono inclusi anche gli artisti, è una grave perdita, perché non pensiamo che sono le imprese che vanno in questi paesi, non ci vanno le imprese. Invece in questi paesi c'è una grande ricchezza socio-culturale da mettere al velo, che può anche produrre economia. Pelle strato, pelle corteccia, corteccia che diventa pelle, rughe e pelle. Ciao a tutti, io sono Lara Russo, vengo da Bologna. In questo mio stare qui ad Accettura è stato nutrito proprio della memoria del maggio, ma anche della loro relazione con la natura. Poi anche per loro rivedere il loro rito attraverso delle domande di una persona esterna che non conosce. Vivere un altro luogo ti fa sentire dopo, nel momento successivo, in modo diverso il proprio di luogo. Alfonso Vespe, sindaco di Accettura. Dico grazie perché per questa idea progettuale splendida. È stato davvero un risveglio, un collegamento e conseguentemente un risveglio dei nostri piccoli borghi. Io sono Andrea Sant'Antonio di IAC, Centro Arti Integrate di Matera, e abbiamo condotto come gruppo una delle residenze a Campomaggiore. La residenza è stata fatta principalmente con la scuola, quindi con la pluriclasse della scuola elementare, 13 bambine e bambini, e poi abbiamo coinvolto i cittadini, cioè quelle persone che si sono sentite un po' investite anche di una responsabilità, raccontare il proprio luogo, il proprio intorno in un processo artistico che non è proprio una cosa consueta, a qualsiasi latitudine questo, non è soltanto a Campomaggiore. Come una scorda di cime, come una scaglia di cielo, sossidine, c'è gli esperite più va. Tutti gli abitanti stavano sempre insieme, passavano così tanto tempo insieme che avevano persino imparato a capirsi e a comunicare. Furono loro i giudici a salvare gli abitanti della città vecchia, tagliando o muovendo le orecchie, chissà. Io sono Paolo, Io mi sono sentito molto coinvolto e anche affascinato, stesso dalla storia del mio paese, che è una storia bellissima. Va valorizzata e va sicuramente approfondita, perché ogni storia è vita e quindi dobbiamo valorizzarla. Sono Nicola Blasi, sindaco di Campomaggiore, prendo spunto proprio da quello che stava dicendo Paolo. Allora Paolo dice: noi conosciamo il nostro paese, la nostra storia, cioè le potenzialità che abbiamo nei nostri luoghi, e su quello dobbiamo investire. Non possiamo stare ad aspettare qualcosa che viene da fuori, che non ci potrà mai essere, perché purtroppo il dramma dei nostri piccoli comuni e dei giovani è anche quello di dire non c'è, la lamentela continua, il non c'è niente, in questo paese che si fa? Ci sono due parole che anche dalle mie parti, nelle Calabrie remote delle montagne, ricorrono, no? Tra le persone che vivono lì, anche tra i giovani, soprattutto sono parole delle persone più anziane. Le parole sono purtroppo e ormai. Purtroppo e ormai. Io sono Antonia Marano e sono un'esperta di processi partecipativi e di progettazione partecipata. Lavoro con Filippo Tantillo in un progetto che si chiama Officine Coesione ed in particolare abbiamo costruito un'officina sui giovani delle aree interne. In particolare noi ci occupiamo di dare strumenti, luoghi e metodi per consentire ai giovani di superare lo sguardo sui bisogni, sulle necessità, ma di partire dai sogni e dai desideri e di provare insieme a costruire delle proposte concrete di policy in dialogo con altri soggetti che possono essere le amministrazioni, le istituzioni, le fondazioni. Perché gli artisti Teatro in Gestazione da Napoli si sposta in Basilicata per svolgere le proprie attività? Vuol dire che sono territori del possibile, cioè del fare, dello sperimentare qualcosa che nelle grandi città non è consentito. La rivoluzione che dobbiamo fare è di cambiare il racconto di questi luoghi del sud, no? A proposito, mi viene in mente la storia di Colobraro, appunto, che ha questa nomea, quindi volevo chiedere al sindaco come hanno utilizzato a favore loro anche questa nomea, che in realtà viene da, appunto, da studiosi che hanno voluto lavorare su questi temi, no? Quindi noi l'abbiamo fatto per scrollarci di dosso quella nomea, prendendo le tradizioni dei libri dei martiniani per venire all'antropologia sud e magia lucana. Alcune scene vengono raccontate che avvenissero a Colobraro e ne abbiamo fatto questa rappresentazione teatrale itinerante, che è diventato un macro attrattore, che ha uno scopo: accogliere quel cittadino di cui parlate voi. Però io non mi posso esimere, ma sempre, diciamo, non passando nel pessimismo ma nel realismo, ai purtroppo e agli ormai di cui lei parlava, che fanno il paio con quei dati statistici che sono usciti in questi giorni, ma che conosciamo da tempo, perché tanto la Fondazione Agnelli ci ha detto a un certo punto: ricordatevi che dovete morire. Cioè non è che non c'era nota questa vicenda. Noi sindaci però sentiamo ognuno di noi, come avete sentito anche dai colleghi, dal lato abbiamo ormai questa cosa interiore che non ci fa più gioire, ma dall'altro poi ci riprendiamo. It's an awful night, night in your room. And from your nation, your imagination, one. Raffaele Vitulli, co-founder di un'organizzazione che si occupa di progettazione europea, si chiama Matera Hub, e presidente di Basilicata Creativa. In realtà noi un esempio di un morto che poi è stato in qualche modo rivisitato, risuscitato, ce l'abbiamo perché è Matera. I Sassi di Matera, quando hanno dichiarato, no, di essere verso la fine, di essere abbandonati, in qualche modo hanno intrecciato artisti che poi hanno contribuito alla rinascita culturale, sociale ed economica della città. Secondo me non dobbiamo avere paura di dichiarare che siamo alla fine di un ciclo, sono molti processi. Questi ragazzi, li abbiamo ascoltati, li abbiamo guardati, non hanno l'arma e l'ossatura per poter salvare una situazione così complessa. Quindi Matera ha fatto quello che ha fatto anche grazie ad una contaminazione esterna di persone come artisti, architetti, pensatori, politici, che venivano qui già con un'ossatura costruita. Poi è chiaro che il territorio deve avere un humus. Sì, allora io sono Paola Bianchi e brevemente sono coreografa e danzatrice. Il mio lavoro, questo che ho presentato qua e che insomma è parte di un progetto più ampio e che si interroga sulla traduzione proprio, traduzione da immagine a corpo, da corpo a parola, da parola a di nuovo corpi e poi che cosa diventa, e quindi abbiamo proprio lavorato sulla traduzione di queste parole che sono descrittive in dialetto di Pietra Pertosa. Il corpo è usato in pecco, versa a destra, il corpo è diritto, versa a sinistra, il braccio a pacca di su braccio la mano e in terra, vicino mano a sinistra, il braccio sinistro è stermettiato in terra, da parte bassa, a gamma destra è chicata. Io mi rendo conto che qui c'è un'attenzione, io non riesco ad andare a parlare con il sindaco del mio paese. Che scambio c'è relazionale tra me e chi gestisce la cosa pubblica? Per certi versi siete privilegiati, cioè voi avete delle potenzialità incredibili. Buongiorno a tutti, sono Maria Cavuoti, sindaco di Pietra Pertosa. Molte volte noi non apprezziamo quello che abbiamo e quindi forse il giovane anche deve essere anche un po' stimolato, un po' scosso, perché non apprezza quello che ha nel proprio paese, magari vede altrove una cosa migliore ma può vedere una cosa peggiore e quindi torna dicendo: cavolo, sono fortunato, oppure sono sfortunato, mi attivo a farlo anch'io. Perché i protagonisti devono essere i giovani, supportati e stimolati da noi tutti. Insieme, forse la parola d'ordine, la parola magica è stare insieme e costruire insieme. Quindi chi vuole andare via deve andare via per fare esperienza, l'ho detto anche in tutte le interviste che mi hanno fatto. Perché è giusto così e noi dobbiamo essere pronti a riaccoglierli per chi vorrà tornare. They laugh at us, they laugh at you, who, who. But we are happy, we are happy. They laugh at us, they laugh at you, who, who. But we are happy, we are happy. Sono Alessandra Pioselli, sono critico e curatrice d'arte contemporanea. E mi sono sempre occupata delle relazioni tra arte e spazio pubblico e sto conducendo da diversi anni una ricerca sul rapporto tra la pratica artistica e le aree interne, rurali e montane. Un giorno ero in un paese di cui adesso non mi ricordo il nome e stavo visitando un castello. A un certo punto scendo da una scaletta e nella piazza vuota mi si para davanti un signor anziano col bastone che mi guarda piuttosto sorpreso e mi fa: ma lei a chi appartiene? E questa domanda che naturalmente è rituale, è comune, mi ha inchiodato perché mi è sembrata una domanda esistenziale e mi sono domandata: ma a chi appartengo? In realtà appartengo a tanti luoghi e non intendo solo topografici, appartengo a tanti luoghi che sono anche immaginati, sono anche pensati, sono luoghi dell'immaginario, sono anche luoghi che, se vogliamo, topografici, non ho mai visto, ma in qualche modo entrano dentro il mio vissuto e la mia esperienza. Allora questo mi porta a considerare il fatto che il luogo, qualsiasi luogo, sia in realtà una compenetrazione di luoghi, di spazi e temporalità differenti, sincrone e asincrone. E la pratica artistica non solo riesce in qualche modo a intercettare questa pluralità che è di flussi, ma è anche quel dispositivo contenitore, chiamiamolo come vogliamo, che mette in connessione e crea questi flussi e quindi porta a pensare la località in senso assolutamente traslocale. Sono il sindaco di Aliano, questo paese in provincia di Matera, famoso perché è il luogo di esilio di Carlo Levi e fonte di ispirazione letteraria del Cristo si è fermato ad Eboli. Abbiamo già nel tempo ospitato delle residenze artistiche, ne facciamo molti anche durante il Festival di Paesologia alla Luna dei Calanchi, e questo è stato un'esperienza importante per la nostra comunità, che ha consolidato sempre di più nel tempo queste residenze artistiche che apportano nuova linfa vitale alla nostra comunità. Yeah, it was really beautiful to be here in the whole thing. This experience, which is not only about Aliano, it's we try to communicate also to the audience the feeling, how it is when you arrive in as a foreigner in another place, and try to get to know people. You're happy to be there, but it's always also a bit difficulty to make the steps, and you're afraid and you're happy in the same time, and we try to put this into the show with this video that we did, or with the whole show. Buongiorno, bentornate e bentornati a tutti i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici sulla Radio Live. Ci troviamo in questo momento al Anfiteatro, che in questo caso però è un teatro di Aliano, e siamo qui insomma per assistere alla performance degli O-Team, formazione tedesca di Stoccarda, che partecipa a In Linea d'Aria anche grazie alla collaborazione col Goethe Institute, che ha permesso di portare due formazioni tedesche quest'anno al festival. So, like, art is not a hobby that I do after work. No, it's a constant thing, and you it's also. It's anyway, like, it's our life. Living we thing don't do anything else. Every day, and you live. Yeah. You live art at the sense. But you still have to separate art and life, or else it gets too funky, man. Chiederei a Giampaolo D'Andrea, consigliere del ministro Franceschini, di dare una sua opinione su questo punto anche, no? Ci sono infinite iniziative positive di reazione alle difficoltà del momento. Con questa metodologia, cioè con il rapporto misto tra l'azione amministrativa e il protagonismo culturale, c'è da innestare meccanismi ordinari sulla vita delle nostre comunità, ma facendolo con sistemi innovativi non sperimentati fino ad oggi. Lo potremmo fare anche nelle attività economiche. Ci chiudiamo alla immigrazione stupidamente, perché nei centri abbandonati nuclei di immigrati hanno fatto in Basilicata la storia delle trasformazioni dei centri. Pietra Pertosa, senza un residuo di presenza araba di un tempo, non sarebbe quello che è, dico, il primo dei comuni che ci capita. Sono Giovanni Oliva, direttore generale della Fondazione Matera Basilicata 2019. Allora, mi devo porre e mi pongo la questione come direttore generale e come padre di due figlie: perché dovrei dire a mia figlia di restare in Basilicata? Ci deve essere un collante che deve moderare l'immigrazione, trasformarla, migliorarla, amalgamarla. È l'unico collante che io in questi anni sto vedendo essere funzionale, è quello della cultura e degli artisti. Ringrazio Anna e Giovanni, insomma, per questa follia che ci ha seguiti e che, come al solito, produce molto di più di quello che noi uomini comuni ci aspettiamo. Questa agorà, punto di arrivo del Festival in Linea d'Aria, sta per finire. Si ringrazia il grande concertatore Massimiliano Burgi, che ha saputo tessere e tenere le fila tra artisti e comunità. E anche i ragazzi di Radio Kashmir di Berlino, che stanno scaldando i fornelli per il loro gran finale di show cooking. A fatica si lascia il grande banchetto del pensiero. Restano le idee, le parole pensate, ascoltate, pronunciate, prese al volo e fissate a pennarello, inchiodate al tavolo come promemoria o domande, in ghirigori di colori, frecce che indicano connessioni, rimandi, sviluppi, trasformazioni. La cultura può aiutare a non morire? Sentirsi comunità, decongestionamento dell'abitare, imparare ad attraversare anche la fine, l'errore e la normalità, offrire strumenti per trasformare, radici per restare, gambe per andare e ritornare. Tutto frana, tutto rinasce. Città dell'utopia, cittadinanza temporanea per tutti, invertire lo sguardo. Ogni storia è vita. Ma voi, a chi appartenete? I wrote a song with my mother. Una storia bellissima. Sono luoghi dell'immaginario. C'è stato questo video. È stata un'umanità vibrante e desiderosa di esserci. E quando c'è la La magica è stare insieme, perché né vicino nessuno è lontano. Io credo che sia proprio questo per spingere ogni giorno.